Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suvaldi in redazione, Fabio Cantadori in regia. E una premessa prima di cominciare, premessa da parte mia, prima di cominciare a chiacchierare con Pier Augusto Stagi, che è qui vicino a me, che già saluto. Ciao Pier. Buon pomeriggio. Ciao, bentornato Carlo. Dal Tour de France. Quindi questo e altri argomenti all'ordine del giorno, naturalmente anche portati dalle vostre telefonate come dalle vostre mail. Qui parte la premessa. Numero verde intanto è 800 24 00 24. No, volevo rispondere pubblicamente, perché mi sembra giusto così, alle tantissime interessanti email che mi sono arrivate, le ultime delle quali questa mattina, una anche a notte fonda, insomma tema Moviola in campo, svolgimento, dal mio punto di vista questione di gusti. A me l'idea non piace, alla maggior parte di voi sì, ognuno ha i suoi gusti appunto, e se li tiene senza la volontà nemmeno lontana di convincere qualcuno. Sarà che io, non essendo particolarmente tifoso di qualche squadra, non ne avverto particolarmente l'esigenza della Moviola in campo. Secondo me semplicemente lo sport ricomprende come parte integrante anche l'errore, che sia di un giocatore, di un allenatore, di un corridore, di un pilota, e anche perfino di un arbitro, pensate un po'. E poi continuo a domandarmi perché in ogni parte del mondo questo è accettato, da noi diventa questione di vita o di morte. Pongo semplicemente questi interrogativi, ripeto, senza pretesa di convincere nessuno delle mie idee, perché è giusto che ognuno si tenga le sue, soltanto per parlarne. 800 24 00 24 è il numero verde, se volete anche di questo. Io intanto parto ovviamente con il ciclismo e con la cronaca di queste ore. Pier Augusto, torniamo dal Tour con Armstrong in stato d'accusa negli Stati Uniti per una questione di doping, ma non esclusivamente di doping. E poi nelle ultimissime ore Petacchi, che si è presentato ai NAS di Firenze avvalendosi, su consiglio del suo legale, della facoltà di non rispondere. Sì, esattamente così. Diciamo che Armstrong è da anni che è bersaglio mediatico di molti suoi ex compagni di squadra che l'hanno accusato di aver fatto in passato ricorso al doping. Lui ha sempre negato, il suo entourage pure, Joan Brunel, che è il suo storico team manager, in ugual misura. Adesso però stiamo arrivando un po' a un forcing finale, anche perché ci sono i poteri forti. In questo caso è una grande agenzia procacciatrice di sponsor, che aveva stretto un ricco e sontuoso accordo sponsorizzativo con l'US Postal di Lance Armstrong in caso di vittoria. C'erano anche delle clausole, tra queste clausole lui aveva un obbligo contrattuale di non far mai ricorso a sostanze illecite. E lui vinse il Giro, se non mi ricordo male, nel 2003, e questo sponsor non ha pagato quello che doveva pagare, quindi sono arrivati al ferri corti, muro contro muro. E quindi adesso c'è stata proprio in questi anni sono state prodotte delle prove, o comunque delle testimonianze, degli elementi, dei dossier che saranno presentati a breve. In questo caso, e quindi sarebbe... cercheranno di mettere spalle al muro Armstrong, non tanto per dimostrare che ha fatto uso di doping, quanto per violazione di una delle clausole contrattuali, quindi esatto. È un giro un po' più lungo. Poi logicamente per gli americani, che sono, lui correva per l'US Postal, che a tutti gli effetti è la posta americana, quindi soldi pubblici, lui avrebbe ingannato anche quindi a tutti gli effetti gli azionisti, tutti coloro che si avvalgono delle poste americane, e quindi sarebbe uno scandalo. Tra l'altro sarebbe veramente un grande scandalo per un uomo mediatico come lui, che ormai veramente viaggia dalla Casa Bianca in giù e mira tra l'altro a entrare a tutti gli effetti. Politicamente lui è già un uomo politico, perché per certe questioni, soprattutto per la ricerca e la lotta al cancro, è un ambasciatore, forse uno degli ambasciatori più efficienti in questo negli ultimi 10 anni. Quello che lui ha fatto l'ha fatto molto bene in tal senso, ma ha anche un'ambizione non nascosta, lo ha ammesso lui stesso di scendere in campo, magari come governatore del Texas, e certamente questa lotta legale non arriva al momento giusto, va un po' a scompaginare i piani, e se le cose dovessero andare male, certo che forse non partirebbe neanche col piede sbagliato, non partirebbe proprio in maniera definitiva. Quindi è una storia sappiamo benissimo molto che americana. Gli americani queste cose qua non te le perdonano assolutamente. Invece, soprattutto perché appunto per falsa testimonianza. Certo. Quindi perché, infatti, il doping entra non è detto che lui sia a tutti gli effetti chiamato a depositare, ma se sarà chiamato a depositare, a rispondere ad accuse specifiche, e lui giurerà davanti agli americani e giurerà poi il falso, perché dimostreranno che dirà il falso, lui è praticamente finito. Ahimè, non è come essere in Italia. Non è come essere in Italia anche da molti punti di vista. Sto leggendo i messaggi, c'è una simpaticissima ascoltatrice ormai affezionata, la solita Silvia, che mi tormenta piacevolmente. Salutiamo Silvia. Sì, lo facciamo da venerdì scorso con questioni, in questo caso la moviola. Vorrei capire se esiste una vostra linea editoriale contro la moviola, basta leggere pagina 234 della Gazzetta. No, non esiste alcuna linea editoriale che io sappia contro la moviola, esistono solo delle opinioni, esatto, la mia pesa esattamente quanto la vostra. Come dicevo prima, abbastanza questione di gusti, non mi ricordo quali sono i tuoi. I miei? Sulla moviola. Ma guarda, sai, io come... Nel ciclismo l'uso televisivo esiste da tantissimo tempo, forse è stato anche lì uno degli sport all'avanguardia, no? Con la creazione del photo finish, si rivedono le volate, si rivedono anche gli ordini d'arrivo, le azioni, quindi potrebbe essere uno strumento, però sono anche d'accordo con te che come sbagliano gli allenatori a mettere in campo una squadra, come sbaglia un centravanti a porta vuota a tirare sulle gradinate, io credo che sia anche giusto digerire, imparare a digerire l'errore arbitrale. Sai, io vedo, insomma, vedo, ma sul serio, l'errore come parte integrante dello sport. Cioè, secondo me deve esistere l'errore da qualunque angolazione, da qualunque punto di vista. Lo si prende da qualunque interprete o personaggio arrivi questo errore, è parte integrante dello sport, dunque a me piace così. E poi, detto questo, nel ciclismo c'è il photo finish, benissimo, il chip nel pallone mettiamolo, proviamo a capire quando è entrato o no, oppure quando è andato fuori dal campo, però si fa un sacco di confusione tirando in mezzo anche il rugby, il basket e tutti gli altri sport. Lì la televisione si usa, sì, ma si usa per fini analoghi a quelli che avrebbe il chip dentro un pallone, non per valutare se una situazione è fallo o non è fallo, non fuori gioco, cioè, esatto. Veramente il gioco sarebbe poi spezzettato da morire, in quale frangente verrebbe usata. Solo questo. No. Mentre il chip nel pallone mi va bene, come mi va bene nel rugby il TMO che dice se la palla aveva superato la linea di meta o se il piede del giocatore era fuori per entrare in meta, sono casi specifici. Noi parliamo, non c'è spesso di sportività, ma la vera sportività a tutti gli effetti è che anche dopo una sana incavolatura, perché la tua squadra del cuore ha perso, perché è stata derubata, poi alla fine veramente in Inghilterra lo fanno, non credo che sia demagogia, lo si è visto, alla fine si battono le mani, è finita lì. Da noi c'è molta esasperazione, molto, molto bar, no? Molto salotto, che continueranno a farlo, perché anche lì dicono la moviola abolita e l'aboliscono, ma tanto se le televisioni private, che voglia di continuare a fare uso della moviola, continuerà a farlo e continueranno a spezzettare e a riscrivere delle partite, perché vengono raccontate delle partite che sono totalmente diverse. Però è così. Invece mi dicono che anche in Spagna, che comunque il calcio è molto molto presente, passano le serate a rivedere la partita. Anche perché non importa oltre un certo limite, come ci ha raccontato mille volte Filippo Maria Ricci, che tra l'altro dopo ritroveremo anche per parlare di calcio, anche per parlare di Spagna soprattutto. Come prevedibile, già anche un sacco di messaggi. 349-238-6666. Un grido: insegnare la cultura sportiva nelle scuole. Ci sono ragazzini che aggrediscono a parole arbitri. Orrore. Lori da Milano ha ragione, ma almeno secondo me. Avere la possibilità di usare la moviola per due volte massimo in una partita non è difficile, è sempre meglio che perdere un mondiale per un gol fantasma, scrive Piero. Sì, però Piero, la storia dello sport, ripeto, magari è forzato, non lo so, ditemelo voi, però la storia dello sport è fatta anche da questi errori, perché che ne sono parte integrante. Oppure, vabbè, tanti altri. Antonio da Como, buongiorno. Buongiorno e complimenti. Grazie. Una cosa, se davvero Armstrong è come si paventa, non pulito, mi cade un mito. Perché per me, l'ho detto a mio figlio l'altra volta, questo è un grande uomo, è uno che nella vita ha insegnato che nulla è impossibile. Sì. Un'altra cosa volevo dire, parlando di sport vero, di ciclismo. Sì. Se non si è presa la decisione che quando c'è il doping si radiano i ciclisti e li si riammette dopo uno sconto di pena, perché al Tour non si è fatto di tutto, visto che aveva scontato la pena, di portare Ricò, che secondo me è un talento davvero davvero da Tour, era il Chiappucci della situazione quest'anno, perché non farlo partecipare? Perché se ha scontato la pena no? Io sì, queste cose voglio dire, cioè il bigottismo o c'è o non c'è, o lì si dà di una vita, come diceva il signor Garanzini, e va bene, se no se scontano la pena bisogna farlo poi devono essere riabilitati in toto, lei dice. Faccio rispondere per Augusto Stagi. Perché qua subentra poi la grandeur e comunque le regole anche del Tour de France e della Francia, e non dobbiamo dimenticarci che Ivan Basso, prima di tornare al Tour, lui ha scontato 2 anni di squalifica, e prima di tornare al Tour ci ha impiegato altri 2 anni, cioè 4 anni, l'hanno tenuto lì nel limbo, è tornato quest'anno. Infatti lui è andato al Tour magari non preparatissimo, magari scarico un po' mentalmente, con una preparazione non certamente all'altezza del Giro, però ci voleva tornare perché per lui mentalmente era veramente la chiusura del cerchio, era come ritornare a tutti gli effetti alle origini e corridore. Sì. Lui poi tra l'altro ha nella sua testa, nel suo DNA, il Tour de France. Non dimentichiamoci invece che Ricò, che confermo, corridore generoso, corridore di talento, grande attaccante, che il peccato originale l'ha compiuto proprio al Tour de France. Mm-hmm. È stato trovato 2 volte positivo al Tour de France, nella gara più importante e mediatica al mondo, dopo i mondiali di calcio e le Olimpiadi, è stato trovato positivo dopo in realtà anche giorni, se vi ricordate, di grandi tensioni, dove lui, perché c'erano già dei sospetti sui suoi certificati, sul suo sangue, su alcuni parametri che non erano forse a norma. Quindi allora, tu dici nei loro diritti dopo aveva anche mandato a quel paese letteralmente Bernardino. Sì. Io credo, no, sarò ancora più duro. Io credo che se per Ricò tornare al Tour de France sarà operazione difficilissima. Non è detto che Ricò torni mai al Tour de France. Fin quando il Tour può invitare e lui non andrà in un team di altissimo livello, che quindi ha un'iscrizione di diritto, per Ricò sarà difficile tornare al Tour de France. Intanto facciamolo tornare al Giro, e mi auguro che il prossimo anno Ricò sia ad animare il Giro d'Italia insieme a Nibali, insieme a Basso, insieme agli Scarponi, e io credo che anche il prossimo anno in qualunque caso al Tour Ricò non ci sarà, perché gliela fanno comunque spurgare un po', almeno un paio di anni, ne ha paga 2 anni, li ha dovuti aspettare Ivan Basso e aspetterà anche Ricò, anche se ripeto, Ricò è andato a creare certi problemi. Ricordiamoci che Vinokurov è stato trovato al Tour positivo insieme a Kajenskin, e l'anno successivo il Tour non ha voluto Stana. Contador, che oggi festeggia il suo terzo Tour, poteva essere il quarto, perché nel 2008 non l'ha potuto correre e ha corso Giro e Vuelta e ha vinto Giro e Vuelta, ma nelle sue intenzioni era correre il Tour, non ha potuto correre quel Tour, quello del 2008, perché il Tour de France ha detto: voi l'anno scorso come squadra, la Astana, formazione casaca, mi avete creato un danno d'immagine, state a casa. Sì. Sono molto, molto duri, ma secondo me ha anche ragione. Poi sul discorso della radiazione, io non la pensavo così fino a un, 2 o 3 anni fa. Sì. Ormai la misura è veramente colma. Io sono d'accordo, e sono su assolutamente discorso. Che bisogna sì, decidersi, sennò, regole chiare. Se no può valerne la pena, Piero Augusto. Se no può valerne la pena. Certo, ne vale molto la pena. Ma se quanto uno non lo sa, Denis Menchev, corridore russo, che probabilmente molta gente neanche conosce, che ha vinto un Giro d'Italia l'anno scorso, che è arrivato 2 volte terzo anche quest'anno al Tour, e una volta quinto. Sai quanto guadagna Denis Menchev? Un corridore che fai fatica a sapere chi è, anche se è di grande livello. Sì, sì. Corridore che guadagna la Rabobank, formazione olandese, quest'anno 1.900.000 euro, e probabilmente, visto che Contador andrà a correre per Bjarne Riis alla Saxo Bank, la Stana ingaggerà Menchev per 2.500.000 euro. Ne vale la pena o no? Chiediamo anche agli ascoltatori: ne vale la pena o no? Secondo me, con le regole attuali, altro che se ne vale la pena. Leggo messaggi, leggo anche stupidaggini come questa. Anche la storia in generale è fatta di errori, vedi il nazismo. Allora ripetiamoli. Ma che discorsi sono questi? Mettiamola domani. Paolo, Grosseto, Claudio, Cremona, Lorenzo, provincia di Trento. Rapidità da parte di tutti. Paolo, buongiorno. Sì, salve. Salve. Senta, io ho riflettuto alla sua frase, no? Sì. E mi sembra che non ha una visione molto corretta della cosa, perché lei pensi che tantissimi incidenti accadono perché l'arbitro, per errore o perché è compromesso, è stato pagato, creano incidenti anche mortali poi fuori dallo stadio. All'estero ho giocato a calcio io, sì. E devo dirgliele certe cose. Sì. Poi preparare una settimana, una partita, con le spese che ha un presidente per pagarci, con le spese che ci sono, e vedere un arbitro coglione che sbaglia, sì. Va bene, sbaglia. Sì. E sbaglia e crea danni, sì. Danni economici, danni alla classifica. Paolo, però lei mi deve dire perché questi danni li creano solo in Italia. Perché? Perché invece all'estero, va in Spagna, che in questo momento è il paese guida dello sport unanimemente riconosciuto, lì invece non c'è questa esigenza così drammatica. Una cosa è una cosa che sì, non va bene, sì. Impareranno anche loro dopo. Se non andasse bene, si metterebbero sulle barricate esattamente come noi. Mi sembra che sulle barricate siamo abbastanza da soli nel mondo del calcio, no? Nonostante tutto, nonostante l'Italia di Trapattoni, sì. Se c'era una moviola, quell'imbecille dell'arbitro che era un cileno, che era noi non avevamo perso questo. Paolo, grazie, alla prossima. Claudio Cremona, buongiorno. Sì, intanto grazie e complimenti a lei, per la pazienza, anche in luglio, per la pazienza. No, io volevo dire, no. Sull'uomo viola c'è anche un altro aspetto da valutare, sì. Io sono contrario anch'io, tranne per quello che riguarda il gol o non gol, però io tifo cremonese, di torti arbitrali me ne intendo un po'. L'ultimo arbitro che ha arbitrato noi ha dato un rigore che non c'era al Varese, è stato promosso in Serie B. Il guardialine che si era opposto, che ha richiamato attenzione all'arbitro dicendo che non era rigore, è stato dismesso. Quindi che si mettano almeno d'accordo, non vogliono la moviola, ma almeno non facciano sapere queste cose, che uno non si sente preso per il culo. Va bene, la ringrazio. Questo è legittimo. No, ma poi tra l'altro un discorso collaterale, ma neanche poi tanto, è il fatto che, come abbiamo già detto, l'eventuale impiego, al di là delle questioni di tifo e di bandiera, no? Creerebbe delle disparità di trattamento tra i campionati del massimo livello e quelli di seconda, terza serie, eccetera, eccetera, perché è chiaro che la moviola non potrebbe essere utilizzata su tutti i campi. Esattamente. Cosa dici? Dico che a me viene in mente, non so, Evaristo Beccalossi, che è stato un grandissimo, sì, no? Tecnica e sopraffina, grande giocatore, amatissimo dai tifosi dell'Inter. Se non mi ricordo male, nella stessa partita di Coppa sbagliò due calci di rigori consecutivi, giusto? Sì. E allora cosa fai? Lo ammazzi. Allora, come puoi accettare, continui a voler bene a Evaristo Beccalossi e lo stimi perché è stato un grande giocatore e in una partita, ahimè, può capitare di sbagliare due calci di rigore, può sbagliare anche un arbitro. O certo, come poi dopo Byron Moreno, dopo lo appunto Byron Moreno, se ieri non sbagliava quel gol, l'Italia passava il turno, non gliel'ha fatto sbagliare via. Tanto è vero che allora noi siamo talmente sportivi, però a distanza di anni e anni non chiediamo scusa a Trapattoni che l'abbiamo licenziato ingiustamente, perché se la colpa era veramente solo di Moreno, Trapattoni doveva restare sulla panchina dell'Italia, perché l'abbiamo mandato via, punto di domanda. A parte il fatto che io ho una simpatia per Trapattoni immensa. Sbagliato mondiali europei, due risultati deludenti. Ecco, vedi, tu sei sempre così cinico e poco sensibile. Sì, sì, sono cuore di pietra. Lorenzo, buongiorno. Dica, buongiorno, poi le rispondo dopo, rispondo dopo la borsa, dica. Buongiorno, sì, mi risponda pure dopo la borsa. Sì. E prima ho sentito il suo ospite in studio far notare come in Inghilterra le incavolature finiscano lì, mentre in Italia ci siano tante chiacchiere da bar e tanto bar sport. Però mi pare che qualche anno fa la Juventus venne condannata sulla trasformazione in teorema di queste chiacchiere da sport, avallate da una serie di indizi spacciati come prove. E volevo sapere dopo la borsa che cosa mi risponde, se sbaglio io o no. Sì, no, non, insomma, lo dice, lo diciano juventino. Riapriamo questo libro. Infatti sono, secondo me sono abbastanza chiacchiere da bar da sport anche quella. Rendersi conto, anche quella. Bisogna rendersi conto, insomma, che comunque il paese in cui viviamo è questo, in cui bisogna abbassare un po' i toni. Sembra una frase retorica un po' banale, però bisogna un po' abbassare i toni. Ecco che torniamo sempre vicino a me, Pier Augusto Staggi, direttore di Tutto Bici, nostra voce del ciclismo. E tra poco riprendiamo a parlare con gli ascoltatori. 800240024, non mi dimentico di rispondere a quello di prima, solo che mi rifiuto di pensare, insomma, che dobbiamo rassegnarci ad essere un popolo di truffatori e quindi senza moviola non possiamo vivere, perché questa è la nostra cultura, la nostra mentalità. Nei fatti forse è così, ma io mi rifiuto di pensare a questo. C'è poi chi scrive: la pazienza ce l'abbiamo noi con voi vecchi Matusa, probabilmente autore della provocazione di prima. I miei 42 anni sono vecchio, sì, ma non ancora così tanto, se non nelle idee, magari a parer vostro. E come anticipato saluto Filippo Maria Ricci, nostra voce dalla Spagna invece. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Io ti ho chiamato per aiutarmi a rispondere a un ascoltatore che mi ha mandato una mail, si chiama Stefano Stoppani da Città del Messico, nostro ascoltatore da Città del Messico, che dice: sabato europei, beh, è arrivata qualche giorno fa, europei under 19, Spagna Italia 3-0, e la Spagna era già qualificata e giocava senza sei titolari, Italia eliminata come ultima del girone senza gol fatti. Calcio, basket, tennis, ciclismo, motociclismo, Alonso, pallamano, pallanuoto e persino pallavolo. Ma qualcuno riesce a spiegarsi cosa sia successo in Spagna a livello sportivo negli ultimi 15-20 anni per permettere loro di raccogliere tanti frutti, eccetera, eccetera. Modello spagnolo, cosa possiamo copiare, così via. Copia Augusto Staggi che parla normalmente di ciclismo. E nel ciclismo non possiamo parlare di strutture, di settori giovanili, eccetera, eccetera, perché le strade e le biciclette sono uguali per tutti. Io mi sono convinto però, piuttosto, caro Filippo, che questo successo colossale abbia creato un gigantesco effetto volano, per cui in Spagna, non so, io mi immagino, non manco da lì da anni, però mi immagino in giro tanta gente a fare sport e sui grandi numeri i risultati arrivano. Sì, questo è sicuramente un aspetto. L'altro è la voglia, che noi forse abbiamo un po' perso, no? Ci siamo un po' imborghesiti, perché ci sono degli sport in cui devi soffrire parecchio, no? Probabilmente anche nel calcio, però il calcio poi dopo, no? Sembra tutto rose e fiori, però no, a me viene da pensare questo guardando queste due medaglie che abbiamo vinto, no? Nell'atletica ieri, sì, che no, decisamente importanti, e due medaglie faticate, no? Uno uno studente, l'altro cioè, il marciatore, il simbolo della fatica. Ecco, da noi secondo me manca un po' questo. In Spagna c'è ancora tanta voglia di soffrire, tanta voglia di impegnarsi, tanta voglia di correre. Cioè, il paese si è messo a correre perché era in gravissimo ritardo, e correndo ha trascinato con sé un po' tutti i settori. Poi adesso è arrivata, no, la crisi economica, vedremo se arriverà anche la crisi nello sport, magari tra 5-6 anni sarà diverso. Sì. In questo momento c'era la voglia di fare e la voglia di dimostrare al mondo che lo spagnolo soffriva soprattutto di un grandissimo complesso di inferiorità. Si sentono un po' emarginati, un po' non all'altezza, e hanno capito che con lo sport c'era una grande scorciatoia per arrivare non in cima al mondo, ma insomma se al tavolo dei grandi e anche con qualche medaglia al collo. Perché si parla sempre di Barcellona, delle Olimpiadi? Perché lì, anche a livello organizzativo, sono state Olimpiadi splendide, lì gli spagnoli compresero che si poteva fare. Certo. Quindi Barcellona 92 è la data chiave, è il fondamento di questa infinita primavera sportiva spagnola. Nel ciclismo, Pier Augusto, com'è la questione? L'altro giorno ci raccontavi 10 tour, sugli ultimi 20 li hanno vinti gli spagnoli. Sì. Perché così forti nel ciclismo? No, pare che sono così forti in tanti sport, come diceva Filippo e ricordavi tu. E nel ciclismo sono fortissimi perché hanno vissuto la prima dittatura di Miguel Indurain, che è stata una dittatura galante, educata. Poi è arrivata quella più smodata americana di Lance Armstrong. E adesso c'è questa comunque sorniona di Contador, che non è certamente il texano, ma non scherza, e credo che possa fare danni, tra virgolette, buon per lui e buon per la Spagna per i prossimi anni, perché veramente comunque il Contador, visto quest'anno, era un Contador un pelino meno in condizione rispetto all'anno scorso, eppure hanno perso l'occasione in Dijlek, Denis Menchov, Samuel Sanchez. Però se tu guardi anche nei primi 10 ne hanno avuti tanti, capisci? Quarto è arrivato Sanchez, ma sono tanti praticanti. Ecco, io non voglio sempre battere perché poi diventi monomaniaco, però è così. Io credo che ci sia anche una cultura, perché in Italia noi viviamo un problema, io parlo di ciclismo, ma poi il calcio comunque, l'Inter senza un italiano, però l'Inter è una struttura italianissima, ed è la squadra più forte forse del mondo in questo momento, no? Nel ciclismo eravamo una delle nazioni di riferimento, lo siamo molto molto di meno negli ultimi 3-4 anni, perché c'è un cambio generazionale e poi perché ci hanno veramente decapitato tantissimi atleti, giustamente peraltro, perché sono stati beccati con la mano nella marmellata e sono stati fermati in Spagna, da una giustizia italiana molto molto molto rigorosa, molto ferma, molto dura. In Spagna c'è l'impressione che invece tali attenzioni o tale rigore non ci sia. Con questo non voglio dire che Contador, Nadal, la Spagna, calcio facciano al primo posto nell'ordine del giorno, però questa è una variabile non secondaria. No, non c'è dubbio. Secondaria, perché dubbio. Sai, noi non abbiamo corridori, dice, ma come mai non abbiamo più corridori? Invece se faccio la lista, prima un ascoltatore giustamente diceva, ma perché Ricò, che sta scontato 2 anni di squalifica, non l'hanno rivoluto al Tour de France? Ricò è un ragazzo giovane, nel pieno della sua maturità psicofisica, che però è stato fermato perché ha ingannato, è stato 2 volte trovato positivo in un Tour de France. In Spagna sappiamo bene Valverde, eccetera, eccetera, su questa disparità di trattamento che è piuttosto evidente. Tornando invece poi tutto l'Operazione Puerto, che comunque è uno scandalo, uno degli scandali più galattici, no? Proprio a livello sportivo, che però ha toccato un po' la Germania, l'ha toccata in pieno quasi quanto l'Italia, la Francia abbastanza, la Spagna ne è uscita pochino. Bene. Tornando invece a Filippo Maria Ricci, è un discorso, Filippo, che abbiamo fatto un'infinità di volte, forse anche troppe, no? Però insomma è l'argomento del momento, quello della Movione in campo. Io prima, provando a rispondere ad un ascoltatore, dicevo, ma come mai in Spagna, che è il paese leader, almeno europeo, nello sport in questo momento, ad esempio nel calcio spagnolo, o gli arbitri sono bravissimi o ci sono altre cose che interessano di più che non il mettersi davanti ad una televisione a vivisezionare, a sbriciolare le gare. Aspettate, vi sento male purtroppo. Non so voi come mi sentite. Ecco. Noi bene. Adesso, il discorso qui è abbastanza semplice. Ho detto, ti sentiamo bene. Sentito. Adesso che è caduta la linea. Adesso richiamiamo Pier Augusto Stagia qui, Filippo Maria Ricci. Invece, tornando un attimo al ciclismo, il Tour di Ivan Basso, come è stato. Prima parlavi di Ivan Basso, va ancora l'anno prossimo per vincere, provare a vincere questo tour. Secondo me l'accoppiata tour giro è impossibile da fare, parliamoci chiaro. E dovrà fare delle riflessioni questo inverno, anzi un po' prima, perché se queste decisioni vengono prese ottobre-novembre. Sì. E facciamo Nibali al giro e Basso al tour? Io credo che Basso possa fare sia giro che tour, ma sicuramente questa volta al giro potrebbe essere la spalla ideale. Al giro, sì, potrebbe essere la spalla ideale per restituire un favore, una cortesia a Nibali. A Nibali. Non mi dispiace. E poi andare al tour invece per coronare il suo sogno, perché dentro di sé ha questo crucio. Anche perché avrà 34 anni, quindi o la va o la spacca, non è certo che com'era quest'anno al giro per lui, o vinceva il giro quest'anno o secondo me non era neanche più un corridore di primo piano. Vediamo se riusciamo a parlare con Filippo. Eccomi, eccoci. Sono di nuovo. Sì, eccomi, cosa stavi dicendo Filippo? No, io dicevo questo, allora intanto in Spagna i dibattiti più seguiti sono quelli radiofonici. Sì. Qui, no, parlando per radio mi sembra che già sia un grande complimento. Sì. Di notte, tutti i giorni, soprattutto poi il sabato e la domenica, i grandi numeri a livello di telespettatori, cioè quindi non di telespettatori ma di spettatori, si fanno per radio. Sì. Ci sono trasmissioni che cominciano a mezzanotte, vanno avanti fino a 1:30, che fanno 2 milioni e mezzo di ascoltatori. Sì. Quindi già lì e quindi la radio, la moviola è complicata. Sì. Sì, per ovvie ragioni abbiamo già eliminato parte del discorso. Sì. Secondo, è chiaro che c'è, sono lì da 4 anni. Ci sono, si arrabbiano, litigano, ci sono dei dibattiti, però non ci sono tutte queste trasmissioni televisive, sono più i giornali un po' ad attizzarli, però in realtà il pubblico quindi insomma il lettore medio o il pubblico del calcio non è interessato a questo tipo di discussioni. Cioè, io lo vedo anche rispetto, io partecipo a una trasmissione che si occupa anche poi di calcio straniero, calcio italiano, e lì ovviamente quando si parla di calcio italiano viene sempre fuori tanta polemica così, e ci guardano sempre un po' con un sorrisetto, come dirà, sì, loro discutono tanto e da noi non succede, ed è così. È chiaro che poi dopo si parla di quelli di Madrid, dicono che c'è il Villarato, cioè Villar, che è il presidente della federazione, si dice che favorisca il Barcellona, ma insomma tutto si ferma a una polemica relativa. E c'è da dire una cosa, gli arbitri spagnoli sbagliano tantissimo. Sì, sì. Cioè, per me sono dei pessimi arbitri, si vede anche quando vanno all'estero. E sì, però, ma il sentimento popolare, non gli interessa. Non ci sono neanche le trasmissioni. Cioè, sì, cioè io non ti saprei neanche dire, cioè non c'è un corrispettivo di Domenica Sportivo Controcampo così seguito. No, ci sono le trasmissioni che più o meno non vede nessuno. C'è molto, vanno molto le trasmissioni di Canal Plus, che però come le nostre un po' da Sky, hanno un taglio un pochino diverso. Certo. Non sono lì a sminuzzare così, e poi ripeto, insomma, è molta parte la fanno le radio, per cui sì, c'è l'errore, va bene, poi si va avanti. È quello che poi succedeva anche in Inghilterra, perché anche esatto, in Inghilterra, prima della Spagna era in Inghilterra e mi sembra che fosse più o meno la stessa cosa. Vabbè, lì la trasmissione è notturna, sì, cioè, capirai, c'è Lineker sulla BBC che ha una plomb, capito, che magari neanche te lo fa vedere l'episodio, sì, dice guarda quell'arbitro si è sbagliato, mi dispiace, arrivederci, grazie. E poi i tabloid cacciano 2 strilli, dice sì, lo prendono magari in giro, però poi basta, finita lì. Da noi, ma lo diciamo da sempre, si esagera. E a me, guardando un po' i giornali in questi giorni, mi sembra assurdo anche questo dibattito sul fatto che la RAI decida di annullare la moviola. Sì. Si parli di autogol, ma perché autogol? Cioè, a parte che ognuno è libero di fare quello che vuole, e poi comunque vedrai che gli episodi importanti li faranno vedere. Certo. Ma poi di sentire 4-5 persone che si scannano per finto o per davvero, perché poi anche lì, no, entriamo in un dibattito su un episodio anche collaterale relativo, perché se fosse successo questo allora quell'altra cosa sarebbe andata via, cioè, mi sembra assolutamente, lasciamo lo sport per quello che è chiaro, c'è un errore, voglio dire, alcuni sono evidenti, e poi si potrà punire l'arbitro se non è bravo, se non ci vede, però punto, insomma, se no cosa si fa, non si finisce più. No, ma è chiaro Filippo, è così. La cosa preoccupante è che insomma, se quei teatrini di cui tu parli li fanno ancora, anche se sulla RAI li faranno in altra maniera, la cosa preoccupante è che li fanno perché c'è una ragione, perché alla gente interessano, quindi questo è il senso del succo del discorso. Filippo, in un secondo, nei giorni scorsi leggevo, non so se è notizia già tramontata, di questo scambio molto affascinante Ibrahimovic-Kakà. Lo fanno davvero o è una balla clamorosa? No, mi sembra impossibile al momento, e a parte che il Barcellona punta ancora a Fabregas, e quindi se vogliono Fabregas non prendono Kakà. Poi se negli ultimi giorni, se si arriva adesso è ancora presto, se tra un mese e nelle ultime ore si vede che uno non gira da una parte, uno non gira dall'altra, sai, Kakà è ancora in vacanza, deve ancora tornare a parlare con Mourinho, inserirsi, e può essere una mossa della disperazione dell'ultima ora, ma io non lo vedo sinceramente. No, cioè, insomma, è molto molto molto complicato, non per quelli che sono anche, insomma, interessi un po' di tutti. Certo. Però immagino possa essere una cosa molto difficile. Non esiste un Biscardi spagnolo, domanda Filippo da Rovigo, vero? Non c'è. No, assolutamente, e non c'è neanche un Biscardi inglese, e soprattutto io penso solo una cosa per chiudere, ma magari la Rai dà un segnale, poi dopo se perdono audience hanno sbagliato, però vuol dire che magari anche il paese non era pronto e non è un gran paese. Magari nessuno lo rimpiange, e magari il prossimo anno l'ADS fa il doppio degli ascolti di controcampo, vediamolo. No, ma vedi, è quello diciamo che dicevo l'altro giorno. Bisogna fare, no? È quello che dicevo l'altro giorno, alla fine deciderà chi ha il bastone del comando, quello con i bottoni in mano, e sulla base di quello che il bastone con i bottoni avrà deciso, si ragionerà sui dati d'ascolto per l'appunto. Tanto noi ci sentiamo presto, ciao Filippo. Sì, a voi, un abbraccio. Ciao. Caro Pieragusto, c'è anche chi domanda, non sarà che forse voi giornalisti sportivi siete troppi e fate polemica perché non sapete di che altro parlare? Noi siamo esattamente contrari alla polemica e alle moviole, quindi... Può essere, però magari ha ragione. Al turno eravate in tanti, però, giornalisti italiani. Molto pochi. Eravamo qui impegnati a fare polemiche. Sì, sì, esatto. Però dai, anche la delegazione italiana di corridori non era numerosissima. Siamo partiti con 17 corridori, siamo arrivati in 14. Sì. Uno all'ultimo posto, però un ragazzo molto interessante. Chi è? Adriano Malori, 22 anni, ragazzo parmense che farà vedere cose molto buone, perché abbiamo comunque degli ottimi giovani. Sì. Ad esempio Nibali, l'abbiamo citato prima, terzo quest'anno al Giro d'Italia, settimo l'anno scorso al Tour questa de France. Questa stagione Nibali è sbocciato e vedrai che il prossimo anno farà il salto definitivo di qualità e entrerà nell'orbita dei Contador, degli Schleck e dei Nibali. Speriamo. Volevo spendere una parola per Petacchi, che oggi, come dicevamo in apertura, si è avvalso la facoltà di non rispondere. Questa è l'inchiesta che riguarda altre questioni. Io parlo di sport e dico che Petacchi in maglia verde mi ha fatto un enorme piacere, anche perché, come tu ben sai, altra cosa tutt'altro che inedita, io ho il pallino dei velocisti che arrivano in fondo ad una corsa a tappe, perché per me quelli sono quelli veri, quel pallino, quelli che si fermano, anch'io. Quelli che vincono. Per questo non ero un super tifoso di Mario Cipollini. Vince le prime 5 tappe e poi alla prima cavia va a casa. Non si fa così. Devi arrivare in fondo a giocarti l'ultima volata. I grandi velocisti, i più grandi velocisti della storia, non ce n'è uno che non sia arrivato a Parigi almeno una volta. La maglia verde, poi vabbè, Zabel, che è stato un grandissimo, un ometto da 220 vittorie in carriera, che si è vinto a 6 maglie verdi e ha vinto 4 Milano Sanremo, ha vinto di tutto e di più. Anche Super Mario è stato un grande personaggio mediatico che ha fatto parlare molto di sé, che piaceva molto anche al pubblico femminile, quindi ha contribuito anche, no, a varcare certi confini, però collocarla a tutti gli effetti verso nell'Olimpo degli insuperabili è un po' dura. Io sono di palato un pochino più fine come te, e a me il fatto che non abbia mai concluso un Tour de France, non è mai arrivato una volta a Parigi, e quindi cioè, la maglia verde per uno come il Super Mario era molto a portata di mano. Lui dirà: ma io ho vinto un mondiale. Sì, ha vinto il mondiale perché grazie al cielo è capitato un mondiale veramente totalmente pianeggiante, e lui era il più forte, e lui era il più forte, ha vinto su quel terreno. Però un atleta come lui, con il suo valore, con la sua tenacia, col suo talento, perché veramente era di un talento immenso, con la sua personalità, gli piaceva dire: no, ma io adesso vado al mare. Infatti i francesi non lo amano neanche un po', sì. Perché devi avere rispetto. Poi loro sono esagerati, perché per loro diventa un eroe, capisci? Loro si accontentano, hanno avuto Bernardino e anche Tilo, Louison Bobé, però sono anche impazziti per Viren, che io questo non lo capisco molto, capisci? Perché mi stanno bene i primi tre, ma Viren, a loro piaceva Viren. Andrea da Brescia, Massimiliano da Genova, rapidamente poi una pennellata di motore e chiudiamo. Andrea, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi, grazie mille per avermi chiamato. Cercherò di essere telegrafico sui successi della Spagna in questo periodo. Cerchiamo di non fare di tutto un erbo un fascio, perché è vero, tennis e golf hanno una base molto maggiore rispetto all'Italia, perché non sono sport di salita loro, quindi sì, sono sport praticati da un sacco di gente. Sì. Poi dopo, per quanto riguarda gli altri successi, specialmente nello sport di squadra, beh, tanto di cappello, esisterà anche un momento fortunato, tant'è che basta confrontare invece con atletica e nuoto, dove dopo delle grandi sparate con l'Opet Lubeo e così via, adesso sono tornati nei ranghi. Viva Dio, c'è anche qualche sport in cui non vanno bene. Però i numeri dicono che, insomma, può essere casuale, possono essere, concorrere mille fattori, però davvero è impressionante il numero degli sportivi spagnoli di vertice in questo momento. Massimiliano, Genova, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Genta, complimenti per la sua trasmissione. Grazie. Ma sono parzialmente d'accordo col signore che ha telefonato poc'anzi. Tuttavia ritengo che forse rispetto a quello che succede in Italia ci sia una maggiore coesione di quelli che sono gli organismi sportivi. Penso che ci sia anche una maggiore condivisione forse dei diritti televisivi derivanti da tutti gli eventi e non ci sia soprattutto questa distrazione che avviene naturalmente da sempre in Italia nei confronti del calcio. Io sono un appassionato tifoso di calcio, però devo dire che mi piace tantissimo lo sport in generale. Sì. Purtroppo però gli altri sport, diciamo, degli altri sport se ne parla generalmente sempre immediatamente nei giorni prima dell'evento e poi il giorno successivo, dopodiché tutto lo spazio mediatico è lasciato al calcio. Non so se lei è d'accordo. Beh sì, molto lo spazio mediatico è lasciato al calcio, ma anche questo, io continuo a dire, insomma, è determinato dal mercato. Non sono d'accordo sul demonizzare il calcio per gli spazi che si prende. Secondo me l'informazione dà anche quello che il pubblico vuole, non sono le regole del mercato queste. Io direi, prima di salutarci tutti quanti, di inquadrare invece il prossimo weekend dei motori. Sport e motori. So che Piero Augusto Stagia è grande appassionato anche di motori, ma c'è Massimo Di Scienza che ci presenta questa corsa che sarà chiave per il Gran Premio di Formula 1 e di cui domenica tornerà lo stesso Massimo Di Scienza da questi microfoni a parlare dalle 16.30 alle 17. Gran Premio d'Ungheria, ciao Massimo. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio Piero Augusto e a tutti i nostri ascoltatori. Che corsa vedremo? Ciao. No, vedremo una corsa che sarà sicuramente caratterizzata da come andranno le prove, le qualifiche del sabato, nel senso che l'Hungaroring, Budapest, è il circuito forse in assoluto insieme a quello di Monte Carlo, innanzitutto più corto del mondiale perché sono poco più di 4 chilometri, e poi dove è praticamente impossibile soltanto ipotizzare un sorpasso. Quindi fare bene in qualifica sabato sarà fondamentale, e questo in chiave Ferrari, viste le ultime prestazioni, soprattutto quelle di domenica scorsa ad Hockenheim, insomma, può essere, può regalarci qualche soddisfazione, visto appunto che insieme alle Red Bull in questo momento le Ferrari sono nettamente nel monoposto più veloci. Che pista è? Corta, 4 chilometri, poco corta, più. Sì, è una pista corta, poche curve, sono soltanto 16 curve, è una pista dove le temperature sono sempre molto alte, visto che poi si corre sempre in questo momento della stagione, anche per motivi, diciamo così, di carattere turistico, viene preferito questo momento della stagione si corre lì, se non sbaglio, dal 1985-86, fu il primo Gran Premio a disputarsi nell'est europeo, una sorta di ponte verso quello che sarebbe dovuto essere il Gran Premio di Mosca, che poi però non si è mai riusciti a fare. Sì. E l'altro problema è che è una pista che è posta e posizionata all'interno di una zona, diciamo così, di carattere agricolo, una zona di campagna, e quindi tende a riempirsi di polvere. È un problema che non si è mai riusciti a risolvere nel corso degli anni, si è provato in tutti i modi, anche attraverso delle piccole barriere protettive, però l'asfalto tende a riempirsi di polvere, questo già fin da subito, fin dalle prove del venerdì, e questo ovviamente poi mette a dura prova la tenuta dei motori e delle gomme. Insidia polvere, ne parleremo, continueremo a parlare nei prossimi giorni, e poi naturalmente Massimo Di Scienza domenica pomeriggio in diretta dalle 4:30 alle 5, subito dopo la corsa, anche per raccogliere le vostre impressioni. Grazie Piero Augusto. Grazie. Non a è voi. Che ci, adesso ci molli fino al Giro d'Italia l'anno prossimo. No, ti lascio andare in vacanza. Ci sono i mondiali prima. Lo so, ma ti aspetto quando torni dalle vacanze, dai. Va bene. Quindi verso ottobre. Va bene. Sì. No, naturalmente scherzo, molto prima. Grazie Piero Augusto Stasi, Flavio Suardi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo domani alle 2.